nel mondo, 203esima trasmissione dedicata agli emigrati, canzoni friulane di Pradamano. Con questa seconda trasmissione concludiamo il ciclo delle canzoni che hanno avuto il battesimo del successo durante l'edizione 1970 dell'undicesimo Festival della Canzone Friulana. Ci auguriamo che i componimenti poetici e musicali dei nostri autori vi riportino col pensiero e con il cuore al vostro caro Friuli lontano. Con il complesso Holiday e il coro di Ruda, diretti da Orlando Di Piazza, ascoltate Amor Sintimi di Lodolo e Zuccolo con la voce di Ilva. Che t'hai nui che ti bani come mio cuoci linfe di amore sinci ma Teresa Scala canta Tordes Cunis di Michelutti e Noliani. Il puestut plui biel de chase anole Lui bien et plus biel et moi de vente qu'au parfait divin al plus fiu te blanche scune cui rizzos un biel pipi. L'anime une stele di Cantoni e Tuni è interpretata da Graziella Cuttini. Thank you. Ed infine Teresa Scala canta Gli Sciampanis dal mio país di Michelutti e Feruglio. Ogni sera che Sciampani mi beve Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.